I conti della Belva di Carlo Alberto Carnevale Maffè e Oscar Giannino. Buona giornata, buon sabato 6 di giugno alle 10:08 primi e 21 secondi agli studi di Milano, assolatissimi, c'è un caldo fuori che è veramente incredibile. Devo dire che anche studio il contributo all'equilibrio termico non è elevato, ma insomma Oscar Giannino e Mario Seminerio intanto vi auguro un buon sabato. Nel frattempo arriverà anche Carlo Alberto Carnevale Maffè, che è in ritardo per via del Freccia Rossa, e noi i nomi li diciamo, ci dispiace, però speriamo che arrivi entro un quarto d'ora, 20 minuti. Renato Cifaletti si collegherà con noi dopo, alla fine della trasmissione, per il rituale Non si può fare. E come sempre in questo sabato mattina vi invitiamo a intervenire in trasmissione facendovi un succinto elenco dei temi che tratteremo. Quindi mettete il ditino sull'800 24 0024 per telefonarci, oppure 349 238 6666 per le vostre opinioni, oppure naturalmente su Twitter, il nostro account è Conti della Belva, e su quello diteci che cosa pensate, di che cosa parliamo oggi. Abbiamo come sempre il rituale, nostro primo appuntamento su a che punto è la crisi, perché questa settimana ha visto uscire importanti dati dell'Istat su aprile, e poi abbiamo il primo trimestre. Oramai, ecco, aprile è ancora da destagionalizzare. Il primo trimestre sono dati stabilizzati sul mercato del lavoro, e questo consentono, come sempre, anzi obbligano a fare la tara tra ciò che avete letto sui giornali, trombe, la Ida, gli elefanti e così via, e la nostra modestissima opinione, che come sempre vi invita a osservare questi dati con un occhio più attento ai dati e meno alla propaganda. Però insomma vedremo questo, anche perché nel frattempo la vicenda greca si è incarognita non poco, e quindi entro sto cavolo di mese di giugno arriviamo davvero a un punto di svolta, oppure a un punto di default. Dopodiché noi abbiamo due grandi blocchi di argomenti sui quali ci aspettiamo le vostre telefonate. Il primo blocco è dedicato a uno dei miti, riti della politica italiana ricorrente, e che riprende a gonfiare le vele del governo e della maggioranza: la cosiddetta staffetta generazionale. Perché il ministro Poletti ha ufficializzato questa settimana il fatto che il governo, chissà, forse conta anche un po' il risultato delle regionali, il fatto che bisogna riequilibrare a sinistra e verso il sindacato, ma comunque ufficializza che si smonta la riforma Fornero. E perché si smonta la riforma Fornero? Ma è ovvio, perché, dice il ministro Poletti, così diamo spazio ai giovani. Allora, la domanda che vi facciamo è: credete voi che il mercato del lavoro sia una specie di torta fissa e statica, per cui si leva una fetta a chi ha più di un certo numero di anni e quella fetta automaticamente va a chi ha un numero minore di anni? È questa l'idea del governo di come funziona il mercato del lavoro? E poi soprattutto, i dati di quello che sta avvenendo ci dice che è proprio così, oppure ci dice una cosa che è un pochino diversa? Siete favorevoli quindi a smontare l'età pensionabile, qualunque sia il costo, senza porvi il problema di chi paga, perché vi illudete che davvero poi arrivano orde di giovani occupati? Vogliamo fare questa stessa cosa che diceva il ministro Madia nella pubblica amministrazione? Parentesi, mentre stiamo aspettando la sentenza della Corte sul mancato rinnovo dei contratti delle pubbliche amministrazioni, dice l'Avvocatura Generale dello Stato che sono 35 miliardi, chiusa parentesi, puntini puntini. Ecco, diteci come la pensate sulla staffetta generazionale. Dopodiché abbiamo un secondo grande blocco in cui affrontiamo una delle proposte politiche più puntute della Lega, la Lega che è andata bene alle regionali, che oramai uno la notte apre la radio e sente Salvini che parla, lo apre la mattina, sente Salvini che parla, dorme la notte, a me è capitato, e Salvini ed è apparso in sogno Salvini. Sì, esattamente. Cioè è oramai è una colpa è di Salvini. No, è colpa dell'informazione. Noi non abbiamo invitato Salvini, ma per parlare della flat tax, per capire A, è possibile, B, è costituzionale, C, ma davvero si può fare al 15% di aliquota, abbiamo invitato Claudio Borghi, che ha fatto un'ottima campagna elettorale in Toscana con un ottimo risultato, ma che è ormai l'economista di punta da un anno e mezzo della Lega per spiegarci la proposta della Lega sulla flat tax, e insieme a lui abbiamo il professor Dario Stevanato per capirla dal punto di vista critico del nostro ordinamento. Inciso, trovate sul nostro sito come sempre Radio 24 Palinsesti, i Conti della Belva, degli articoli per ognuna di queste sezioni per approfondire. Troverete sulla flat tax un saggetto dei tanti che trovate dal sito dell'IBL, perché noi all'Istituto Bruno Leoni sono 20 anni che ce ne occupiamo, non ho messo i miei, ma se andate sul sito dell'IBL troverete i miei scritti in proposito fino a 20 anni fa, 15 anni fa, 10 anni fa. Perché? Perché io dichiaro sempre il mio conflitto di interesse. Io ho scritto selvaggiamente a favore in passato della flat tax, però il problema è che ho imparato nella vita che bisogna fare queste proposte quando le si fa in maniera che siano credibilmente inattaccabili, altrimenti si viene rimbalzati all'opposto e si dà ancora una mano ai più feroci fautori della progressività. E questo sarà appunto il nostro fil rouge nel chiedere a Borghi di spiegarci la proposta della Lega. Detto tutto questo, arriveremo poi a fine trasmissione con un solito approfondimento di un esempio clamoroso del non si può fare con il nostro Renato Cifarelli. Ma adesso, Mario, dimmi, in settimana, oltre a questi temi di cui parliamo dopo, che cosa ti ha fatto arrabbiare? Ma io noto diciamo questa resipiscenza, questa ricaduta di questa inchiesta sulle cooperative a Roma. È noto, stamattina c'è sui giornali di stamattina, che la raccolta differenziata multimateriale effettuata a Roma dalle cooperative per conto dell'AMA arrivava a costare, multimateriale vuol dire plastica, acciaio eccetera, arrivava a costare 900 euro la tonnellata contro il benchmark nazionale di 300 euro e contro il, diciamo, il best performing che è Prato con 200 euro a tonnellata. Per cui a me viene da pensare, ancora una volta, se solo potessimo stampare moneta, quanti problemi riusciremmo a risolvere? Naturalmente questa è una battuta, un po' una provocazione, però restiamo garantisti, le indagini andranno avanti, ovviamente vedo che tutti sono assolutamente, si dichiarano perfettamente puliti e senza problemi, quindi probabilmente deve essere stato così qualche rumore di fondo che ha determinato queste inchieste, e aspettiamo fiduciosi. Dopodiché mi pare abbastanza evidente che le condizioni di questo paese sono abbastanza desolanti, ma non tanto perché io non credo, diciamo, completamente, no, al discorso sì, la corruzione ha un peso sicuramente rilevante. Il problema è che questo è un paese che continua a prendersi in giro. Cioè, un paese che continua ad ascoltare fiabe, le ha ascoltate anche nell'ultima tornata elettorale, passati dalle fiabe governative alle fiabe d'opposizione, e questo mi fa pensare che la prognosi resti abbastanza sfavorevole. Detto tutto questo, sullo stesso argomento, io ho l'espressione, la mia opinione l'ho detta in settimana nelle trasmissioni, e io sono per andare a votare a Roma, non capisco come si possa reggere questa roba dicendo che non possiamo, cioè il giubileo, ma non diciamo sciamenze, cioè, di fronte a tutto il mondo la capitale italiana sta facendo una figura di merda. E queste cose vanno dette come sono, destra e sinistra, cooperative di destra e di sinistra, non può tenersi in piedi un consiglio comunale gravato da una trasversalità del malaffare di queste proporzioni. A lucrare sulla carne umana in mare ci sono gli scafisti e a terra in Italia gli schifisti dei partiti italiani, questa è l'amara verità. Non me ne frega niente che adesso Renzi dica che improvvisamente sono garantisti, Marino è fuori, vuol dire semplicemente che non se lo possono permettere, si sono presi paura per le regionali, questa è la verità. Ma tenere in piedi questa consiglio comunale, Marino non c'entra, ma questo consiglio comunale è dare l'espressione visiva al mondo della nostra pervasività schifosa dei partiti che continuano a lavorare per il Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle non può che essere il grande beneficiario insieme a Salvini, è ovvio. Dopodiché, quello che mi ha fatto arrabbiare, se volete approfondire, il mio miglior commento oggi è di Alberto Mingardi sulla Stampa. Scrive Alberto Mingardi un meraviglioso articolo in cui dice: guardate, non me ne frega niente la politica, o facciamo dimagrire la vacca perché abbia meno latte da dare discrezionalmente, questa è la famosa espressione, oppure non se ne esce. Non credete ai magistrati ex post, ai cantoni ex ante, eccetera eccetera. Far dimagrire la vacca è lo Stato, i partiti quelli che la mungono, e siamo sempre lì. Detto tutto questo, leggete leggetevi anche questa meravigliosa intervista, le prime due pagine del Corriere della Sera oggi, di Putin, di agghiacciante realismo nelle risposte. Vi leggo solo l'ultima riga dell'ultima risposta. Chiede il giornalista del Corriere: ma perché i principali canali della TV russa non intervistano mai gli oppositori? La risposta rabbrividente, molto realistica, di Putin è questa: come sappiamo, nella lotta con gli avversari si ricorre a diversi mezzi. Che è una roba agghiacciante! Cioè, Putin non si nasconde e conclude dicendo: beh, basta ricordare la recente storia d'Italia. Cioè, per la serie, io non sono peggio di voi. Diversi significa anche che a volte Putin li elimina, infatti, con il Polonio o con altre cose. Però lui almeno dice le cose come stanno, a differenza dei politici italiani. È arrivato Carlo Alberto! Sì, le nostre tecnologie di trasporto terrestre sono ancora un attimo. Viva il mercato e la concorrenza. Va bene, intanto noi però siamo in ritardo con la nostra prima pausa e poi torniamo con A che punto è la crisi. Della belva. Eccoci tornati in diretta 10-19 primi in questo sabato 6 giugno. San Norberto, il fondatore dei Premonstratensi. Premonstratensi, uno dei grandi ordini che nell'alto medioevo hanno preservato la grandezza della cultura occidentale. Devo dire, poi purtroppo l'ordine si è un po' spento, però nel XII, XIII e XIV secolo San Norberto è stato uno dei punti di riferimento della grande cultura, delle prime grandi scuole filosofiche a Parigi e così via. Detto questo, siccome sei arrivato in ritardino, caro Carlo Alberto, che ti ha fatto arrabbiare questa settimana? Solo un aumentino da capitale pari al PIL di questo trimestre, che, come avete capito, sia per MPS che per Carige non è esattamente trasparente ed è molto sensibile a notizie e a fenomeni che stanno accadendo esattamente ai nostri confini, cioè vicino alla Grecia. Quindi è un momento delicato, stiamo chiedendo agli italiani di mettere mano di nuovo alle tasche per risanare situazioni bancarie che non sono per niente trasparenti. Insomma, bisogna un po' sorvegliare tutto questo. Non è una situazione facile, nonostante l'appello di Fazio. Vizio, sono rimasto. L'anima di Carli. Ignazio Visco. Ancora baffi. Nonostante l'appello di Visco, sento ancora un silenzio agghiacciante sulle condizioni del sistema bancario italiano. Diciamo che la grande informazione italiana e la grande impresa italiana preferisce star zitta dopo anni di fronte all'ennesimo momento del capitale di MPS, come tutti quelli fino a questo momento. Non ha i numeri per far reggere la banca, perché questa è l'amara realtà. E però tutti quanti facciamo finta di niente. Abbiamo assistito alla Popolare di Vicenza a un amministratore delegato che va a casa dopo poche settimane, adesso i due vice direttori generali, pare che ci sia una doppia ispezione in corso. Però tutto questo finisce nelle brevi tecniche, perché naturalmente c'è un problema rilevante di trasparenza dei rapporti, di trasparenza e dei rapporti tra sistema dell'informazione, sistema imprenditoriale e sistema bancario nel nostro paese. Dopodiché il credito che non arriva, care famiglie italiane, cari imprenditori italiani, dipende dal fatto che 12 punti di PIL di credito deteriorato sono i figli di tanti anni di merito di credito preferenziale agli amici degli amici del sistema bancario italiano. Solo che a dirlo rischi di finire contro il muro, purtroppo. Allora facciamo partire la nostra sigletta. Che sto punto? Sto vivendo una crisi. Ed eccoci qua al nostro rituale appuntamento. I nostri fan ci chiedono sempre: ma Seminerio è in crisi o no? E questa settimana la cosa incredibile è che i dati eclatanti dell'Istat sull'occupazione di aprile dovrebbero aver fatto uscire, molti hanno detto, per sempre Seminerio dalla depressione. Ha abbandonato gli psicofarmaci l'economia italiana, non Seminerio, attenzione. Ecco, su questo Mario mi farai il piacere di non credere che... No, quelli li tengo, mi servono. No, ma gli psicofarmaci ce li somministrano con la lettura dei dati. Sono negli acquedotti. Esattamente. Allora, andiamo a vedere questo fantastico del mese di aprile, dato non destagionalizzato. Domanda: ci dobbiamo fidare del tendenziale del mese di aprile subalterno oppure sul tendenziale del primo trimestre stabilizzato, visto che i numeri sono un pochino diversi? Se guardate il tendenziale dei dati del primo trimestre, l'occupazione tendenziale annuale su base annuale è più 90.000 e meno 144.000 la discesa dei disoccupati. Se invece prendete il solo mese di aprile con più 159.000 in un mese, cacca, qui facciamo milioni di occupati aggiuntivi su base annuale. Allora Mario, ma sono dati molto rumorosi in senso statistico. Vabbè, quello mensile, quindi aprile su marzo, è più 159.000, questo è destagionalizzato, è apparentemente molto confortante, però io noto una forte escursione da un mese all'altro e questo non mi quadra completamente. Diciamo, il mese scorso era andato molto male, questo è andato molto bene, non vorrei che ci fossero problematiche, diciamo, di tipo statistico. Io però mi focalizzerei sul trimestrale. Esatto. Mm-hmm. E quindi sulla variazione rispetto allo stesso trimestre del 2014, il primo. Allora, qui abbiamo più 133.000 unità di occupazione e tuttavia, se andiamo ad osservare, diciamo, la disaggregazione così come descritta da Istat, si osserva che intanto aumentano i dipendenti permanenti di 36.000 unità, ma anche i dipendenti a termine di 72.000 unità. Quindi in questo ovviamente non c'è alcuna traccia del Jobs Act, se non in misura parziale, diciamo, di misure come sono stati i sussidi a partire da gennaio. C'è ancora un aumento degli occupati a part-time involontari, cioè quelli che vorrebbero un lavoro a tempo pieno ma non possono averlo o sono costretti a lavorare a tempo parziale per motivi economici, e questo indica che ancora l'economia non è solida. Però la cosa che mi ha colpito di più è che, guardando le coorti anagrafiche, nella fascia di età tra i 55 e i 64 anni, nel primo trimestre di quest'anno abbiamo avuto ben 267.000 occupati in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Allora, se il dato totale è 133 e la coorte anagrafica anziana è 267, con un complesso algoritmo si può vedere, guardando proprio il database dell'Istat, che nelle altre coorti di età, quelle più giovani, l'occupazione nell'ultimo anno non ha fatto altro che diminuire. Quindi cosa vuol dire? Che ipotizzate di avere un signore di 54 anni lo scorso anno, nel frattempo quest'anno ne ha compiuti 55, ha fatto uno scatto di coorte anagrafica, moltissime persone sono nella sua stessa condizione ed ecco che statisticamente si crea un aumento di occupati in quella coorte anagrafica. Queste sono le persone che sono rimaste al lavoro perché hanno avuto un allungamento dei tempi di pensionamento. Non solo, questo aspetto anziano si riscontra anche negli inattivi. Cioè, c'è una riduzione degli inattivi, ma imputabili alla componente delle persone ritirate dal lavoro o delle persone che praticamente sono rimaste al lavoro, e quindi anche qui per effetto ottico di scorrimento del tempo crolla il numero degli inattivi, mentre il numero degli scoraggiati è comunque in aumento di 52.000 unità. Quindi cosa voglio dire con questo, se non vi siete annoiati? L'occupazione starà verosimilmente crescendo, è una crescita su base ciclica, quindi la sta facendo praticamente tutta Europa, non vedo motivo di suonare la fanfara, però la composizione di questa occupazione è fatta in misura abnorme da anziani che sono incastrati nel loro posto di lavoro perché non hanno maturato l'età di pensionamento. Stesso discorso per il calo degli inattivi. Quindi ci vuole calma, gesso, aspettare, perché ribadisco, se oggi ho visto che ne hanno parlato anche sulla voce.info, se aumentano gli occupati e l'attività economica aumenta di meno, la produttività cala, fatevelo entrare in testa, perché da qui non si sfugge e non si scappa. Anzi, questo aspetto è ancora più rilevante per uno dei dati che si leggono nel trimestre rispetto all'anno precedente, perché l'andamento positivo dell'occupazione aggiuntiva si distribuisce sia a nord che al sud, ma l'aumento percentuale del sud è maggiore di quello del nord rispetto a un andamento del PIL nello stesso tempo che invece è asimmetrico, cioè a nord la ripresa del PIL è maggiore, al sud è minore. Quindi al sud è ancora più rilevante l'aspetto di un'occupazione che riprende ma con un PIL che stenta, quindi significa un'aggiunta di posti a bassa produttività, perché se andate a vedere nella scomposizione regionale dei dati dell'Istat sul primo trimestre, è molto interessante vedere le asimmetrie che sono in corso. Anche nel nord non è affatto allineato il dato. Voi vedrete che tra Piemonte e Veneto i dati dell'andamento della ripresa dell'occupazione e della discesa della disoccupazione sono esattamente opposti, quindi le diversità della risposta al traino delle esportazioni, che nel primo trimestre ha stentato nel nostro paese rispetto alla ripresa che c'era stata negli ultimi sei mesi del 2014, si legge in questi dati. E aggiungo il dato degli over 55, che fa un multiplo delle altre coorti sia per l'aumento dell'occupazione che per la componente di discesa dell'inattività, è coerente a indagini qualitative condotte dall'inizio dell'anno sulle imprese, su cosa volete fare nel 2015 di fronte allo Jobs Act e alla decontribuzione, sia al campione Excelsior, quindi stiamo parlando di 100.000 imprese che fanno parte di quel campione, il campione più ampio di impresa italiana, che è stato presentato al rapporto annuale Confcommercio due settimane fa, sia fatto da grandi territoriali di Confindustria come Asso Lombarda. Alle indagini come vi comportate di fronte alle due misure nuove sul lavoro, le imprese rispondono soprattutto sì, ne approfitteremo cambiando i tipi di contratti, e diciamo un quarto più o meno dice valutiamo anche occupazione aggiuntiva, ma soprattutto alla domanda prendete giovani rispondono sempre invariabilmente fino a questo momento no, noi cerchiamo skills già formate, quindi significa quelli che sono più avanti con gli anni, assorbiamo dai cassi integrati, ricordiamo che con centinaia di milioni di cassi integrati da assorbire che sono occupati nelle statistiche, significa che capite bene che non diminuisce la disoccupazione, ma soprattutto per i giovani sarà molto tosta, perché Carlo Alberto, questa scuola e questa università in realtà non danno i profili che alle imprese servono. Sì, ma guarda, è tutto un problema statistico. Io, se posso parafrasare quello che ha detto Mario, siamo pronti alla corte, ok? e quindi prepariamoci alla staffetta generazionale, perché effettivamente questa campionatura statistica, questa classificazione statistica un po' ci illude. Dovremmo probabilmente tutti insieme rappresentare il mercato del lavoro in maniera un po' diversa. Cioè, siccome soffriamo veramente di una lente di ingrandimento del mercato del lavoro che non è trasparente, non ci consente di leggere i fenomeni. Per esempio questo tema del mercato dei giovani, è vero, stiamo perdendo una generazione, Oscar, devo dire è un dramma, non sono i miei studenti, devo dire che invece vanno molto bene sul mercato del lavoro, ma la gran parte, stiamo perdendo la generazione che ha studiato di più. Noi abbiamo quasi raddoppiato la quota di laureati sulla popolazione in questi ultimi 10-15 anni e non la stiamo facendo lavorare, è la più grande distruzione di valore dell'Italia dal dopoguerra. Infatti la reazione è che invece la corte, tanto per dire un'altra, degli iscritti all'università in questi ultimi tre anni è andata in calo verticale, perché i giovani hanno iniziato a capirla questa cosa che dice. È un investimento che non rende. Esatto, la reazione naturalmente è discutibile, però a fronte del fatto che l'offerta formativa non cambia, la gente dice ne faccio a meno. È razionale, reazione, ma è sicuramente un sottoinvestimento in capitale umano, esatto, che noi pagheremo nel lungo termine. Esattamente. Perché avremo una popolazione sempre più dedita ad ascoltare i talk show politici, anziché a sviluppare la produttività del paese, quindi siamo spacciati. Sì, col fatto che esportiamo invece cervelli buoni, che ci costano 250.000 euro di formazione nel ciclo di vita, e quelli buoni vanno a cercare opportunità all'estero, ed è vero che invece i laureati italiani capaci hanno un mercato internazionale. Quindi abbiamo il doppio paradosso, quelli che non studiano ce li teniamo sulle croste per la produttività bassa per i prossimi non so quanto 50 anni, e quelli buoni li stiamo regalando formati, lucidati al mondo. Saranno perfetti elettori per questa classe politica. I primi, completamente. I secondi voteranno quelli che ci teniamo sulle croste. Esatto, cioè i secondi hanno andati. Votato coi piedi. Sì, benissimo, sì. Benissimo. Torniamo tra due minuti e cominciamo appunto, è stata la premessa, per lanciare la domanda. Ci credete alla staffetta generazionale? A tra poco. Della belva. Eccoci tornati in diretta a 10.35 primi 30 secondi agli studi di Milano di Radio 24 Assolatissima. I compari di Conti la Belva vi salutano. Mario Seminerio. Carlo Alberto Carnevale Maffè. In ritardo oggi per colpa dei treni di Trenitalia. Però detto questo, che ci dicono i nostri ascoltatori fino a questo momento, ragazzi? Ma Su Twitter c'è Riccardo Puglisi, fa notare che appunto dalla serie, dalle serie corte non si cava nulla, parlando dell'occupazione. È verissimo, infatti io praticamente non ho toccato il discorso della serie mensile, che mi pare molto rumorosa, e ho preso il trimestre 2015 su trimestre 2014. Poi posso citare per fatto personale, cioè un ascoltatore che mi chiede cosa provo ad essere stato citato dai gruppi parlamentari del Movimento Citato, sei stato indicato come uno dei più prestigiosi economisti indipendente, dal Movimento 5 Stelle, dal gruppo parlamentare al Senato del Movimento 5 Stelle sulla staffetta generazionale Jobs Act. Mi fa piacere, esatto, perché hanno citato correttamente il mio pensiero. Quindi chiunque riporti il mio pensiero correttamente mi fa piacere, non si tratta né di adesione ideologica da parte mia né di altre cose. L'importante è non distorcere troppo il pensiero altrui, ma questo credo che sia una regola generale di vita, diciamo. Vabbè, poi c'è l'altro ascoltatore, le illuminazioni seminero mi fanno pensare a Brunetta, non so, cioè mi sembra Archimede pitagorico, no, diciamo, no, ma chi deve interpretare? Vuol dire che rispetto a Brunetta gli fanno ripensare al suo pensiero. Sentono la mancanza di Brunetta, no, capisce finalmente che va superato il Brunetta pensiero. Va bene, dopo vent'anni di poi vabbè, diciamo, ci sono un paio di SMS che precisano che alle prossime elezioni ci sarà un trionfo del Movimento 5 Stelle seguito dalla Lega. Queste sono praticamente le a far finta di niente, esatto, a Roma sia un po' inevitabile. Vabbè, cari ragazzi, vabbè. Allora inizia il blocchetto sulla domanda staffetta generazionale, ci credete verrà fatta e otterrà questi risultati? Ma soprattutto l'economia, i mercati, quello del lavoro, sono mercati statici, stazionari, si leva uno per dare a un altro, ma che cavolo di concezione medievale è questa? Questo naturalmente siamo noi a porci la domanda. Allora, prima degli ospiti, due telefonate di ascoltatori. Iniziamo con Ottavio da Piacenza. Ottavio, ci pensi? Sì. Sei favorevole alla staffetta generazionale? Io sono assolutamente favorevole, credo che sarà inevitabile, voglio dire, perché le competenze digitali stanno crescendo, voglio dire, come richieste in tutte le professioni, quindi è indubitabile, voglio dire, che i giovani hanno, voglio dire, delle competenze, una consuetudine, voglio dire, con la forma digitale, voglio dire, che non appartengono a generazione come la mia. Io tra poco farò 60 anni, cioè, per quanto, voglio dire, aggiorniamo le nostre capacità e le nostre curiosità in questo settore, voglio dire, siamo sempre un passo indietro. Ottavio, giura che non lo stai dicendo perché vuoi andare in pensione qualche anno prima? No, giuro. Per me, voglio dire, non è un problema. Io ci vado, voglio dire, quando mi diranno di andare in pensione, voglio dire, perché ormai me ne sono fatto una ragione. Però mi chiedo, voglio dire, se sia giusto avere, che so, un insegnante, voglio dire, di 65 anni che insegna delle nuove generazioni. Ma sei disposto, ecco, per andarci prima, se vuoi ottenere questo effetto delle giovani, certo, a tagliarti proporzionalmente l'assegno previdenziale in maniera tale che il maggior numero di anni per dartelo non si riverberi su un deficit complessivo? Ma io per esempio, allora, si tratta sempre, voglio dire, di valutare il sacrificio, a parte che noi sacrifici li stiamo facendo da sempre, io insieme a milioni non di italiani. Non girarci intorno, di sì o no? Io sì, voglio dire, però sono anche convinto che si possono creare delle staffette in modo tale, voglio dire, che la persona, voglio dire, accompagni, cioè faccia da tutto a un ragazzo, a un nuovo, voglio dire, persona che segue, voglio dire, il suo percorso lavorativo, sacrificando, voglio dire, magari, voglio dire, parte del suo stipendio in quel momento per avere, voglio dire, poi in futuro Abbiamo trovato un ottimista entusiasta, quasi sostenitore della staffetta generazionale. A noi, i nostri due ospiti, staffetta digitale la definirei, sì, staffetta digitale, però diciamo, entusiasta, ottimista, ci è voluto per fargli dire sì sul taglio, perché capisco che quello che vi si dice è smontiamo Renda Fornero. La mia domanda è chi paga? Allora, per parlare dal punto di vista diversi, ma in realtà convergenti, della staffetta generazionale, abbiamo con noi Rossana Dettori, che è segretario generale della funzione pubblica della CGIL. Buongiorno, buongiorno e grazie Rossana. Buongiorno a voi. E Massimiliano Fedriga, che è deputato responsabile welfare della Lega Nord. Buongiorno Massimiliano. Buongiorno a voi, grazie dell'invito. Allora, Rossana, crederci davvero a questa visione stazionaria del mercato del lavoro per cui basta mandare prima in pensione, e ci dica secondo voi chi paga mandando prima in pensione e smontando l'età pensionabile della legge Fornero, e automaticamente ci sono i giovani che prendono il posto? Perché dovrebbe funzionare così, Rossana? No, allora, io penso che la Fornero vada superata, però questo è un pensiero della CGIL già annunciato da tanto tempo, soprattutto in flessibilità, flessibilità in uscita, perché come diceva uno degli ascoltatori prima, ci sono alcuni lavori per cui è impensabile farli lavorare fino a 65, non sono solo gli infermieri, ci sono i vigili del fuoco, quelli che lavorano nelle case di riposo, che sono lavori molto faticosi, per cui davvero a quell'età è impensabile tenerli in servizio. E già questo, senza penalizzazioni, perché l'altra cosa, una cosa è dire tagliamo sulle pensioni alte. Se pensiamo ai lavoratori pubblici, quelli dei compatti, la loro pensione mediamente sta sui 1.400-1.500, pensare di mandarli via prima tagliandogli l'assegno, secondo me è incomprensibile, non, no? Facilmente accettabile, soprattutto per chi ha versato correttamente i contributi verso le casse previdenziali. Come si può determinare la staffetta generazionale? Perché da una parte ripristinando l'uscita flessibile dei lavoratori più anziani, dall'altra parte avendo il coraggio di fare un piano occupazionale che questo governo non ha in mente, per cui per particolari tipologie di lavoro, penso a tutti i beni culturali che in questo paese sono davvero la nostra ricchezza, mancano moltissime professionalità che hanno i giovani, perché sono nuove tipologie di professionalità per cui si potrebbe già assumere. Quindi la risposta diventa che la garanzia alla staffetta generazionale è il fatto che è lo Stato che li assume, che li sceglie giovani, in molti casi. Cioè, così ci abbiamo la garanzia. No, ma questo contribuisce alla chiarezza della sua opinione. Dopodiché, invito a riflettere, Rossana è stata chiara, ha detto non pensate per favore a tagli generalizzati degli assegni se ripristiniamo la flessibilità in uscita, perché non si può, perché non è giusto. Cosa diversa è, rifacciamo il calcolo rispetto ai contributi versati per assegni particolarmente ricchi, di multipli rispetto ai contributi versati, ma in generale non vale il principio dell'equilibrio attuariale se smontiamo l'età pensionabile in maniera tale che il maggior numero di anni di godimento della pensione rispetto all'attesa di vita debba avere un'invarianza di oneri. Questa è la sintesi chiara di quello che ha detto Rossano. Vediamo invece la tesi della Lega, di Massimiliano Federica. La Lega, sapete, ha fatto raccolta le firme, ripete tutti i giorni smontiamo la legge Fornero e così via. La vostra opinione su come fare eventualmente funzionare la staffetta generazionale è: se smontiamo l'età pensionabile, chi paga la differenza? Si dice al pensionato devi essere in equilibrio e ti tagliamo l'assegno in proporzione, oppure no? Facciamo un intervento solo per gli assegni alti? 4. Chi ci dice che i giovani entrino al posto di chi pensioniamo prima sui posti di lavoro? Beh, intanto io partirei da una premessa: chi sta pagando i costi della riforma Fornero? Per qualcuno ci racconta, guardando in modo asettico il bilancio dello Stato, avremo un risparmio di 80 miliardi negli anni di previsione, che sono stati 10 quando è stata istituita, e quindi bisogna coprire quella cifra. Allo stato attuale, chi sta pagando quella riforma Fornero, oltre non ritorno su esodati, persone colpite, ma sono anche le imprese. Vi voglio ricordare, qui sono i dati di Confcommercio, che un lavoratore vicino all'età pensionabile costa 2,5 volte il giovane che entra nel mondo del lavoro. Significa che, immagino in particolar modo in quei lavori di fatica, nel manifatturiero, dove ovviamente, naturalmente, grazie a Dio è così, il lavoro vicino all'età, il lavoratore vicino all'età pensionabile è meno produttivo, peccato che l'azienda costa 2,5 volte in più. Significa che è stato spostato il costo sociale dal pubblico al privato. Primo dato, rendendo meno competitive le nostre imprese e meno, con meno capacità di competere a livello internazionale. Seconda cosa, la riforma Fornero non è stata fatta per tenere in piedi i conti INPS, perché i conti INPS già nel 2009, la Commissione europea vedeva l'Italia come punto di riferimento di tutta Europa, perché eravamo gli unici che, dopo le diverse riforme a partire da quella del 92, andava a diminuire i costi della previdenza. È stata fatta per coprire i buchi del pubblico, tra cui quelli INPDAP. Perché è stata data poca attenzione dal fatto che che nella riforma Fornero non soltanto è aumentata l'età pensionabile, ma è stata portata INPDAP con un buco di 9 miliardi di euro dentro INPS. E da cosa è dovuto questo buco? Al fatto che il datore di lavoro, ovvero il pubblico, non pagava e non dava e non versava i contributi per i propri dipendenti. Dunque, chi ci racconta che il lavoratore deve sacrificarsi per fare stare in piedi il pilastro previdenziale è una balla. Semplicemente ci sono delle casse come INPDA che non funzionavano, altre casse che sono andate ad esaurimento e quindi non avevano più contributi versati, essendo il nostro sistema di ripartizione, faccio l'esempio quella telefonica, la cassa elettrica ed altro, ma i conti INPS non erano assolutamente sull'orlo del baratro. sono stati utilizzati i soldi dei lavoratori per andare a sanare il buco pubblico. Allora noi cosa diciamo? Che dobbiamo confrontarci con il periodo storico che stiamo vivendo, e il periodo storico che stiamo vivendo è che siamo in un periodo di contrazione dell'offerta lavorativa. Può piacere o no? Può piacere o no? È chiaro che per uscirne bisogna far ripartire l'impresa, abbassare la tassazione, giustissimo, ma nell'immediato l'unica soluzione è un ricambio generazionale forte che si può avere solo con la revisione della riforma Fornero. No, no, questo è chiaro, però posso fare, Federica, posso fare una domanda, cioè, certo, a parte la ricostruzione, che noi siamo l'esempio, saremo l'esempio, però noi siamo sopra il 16% di PIL che paghiamo per questo, siamo 3 punti rotti più della media europea, quindi siamo l'esempio. Sa meglio di me che stiamo chiudendo quest'anno, cioè ha aggiunto questa settimana l'organo di vigilanza dell'INPS, ha detto anche in questo, per il quinto anno consecutivo, i conti dell'INPS saranno tra i 5 e 6 miliardi di deficit il conto economico, malgrado 90 miliardi di contributo dalla fiscalità generale, malgrado 90 miliardi annui, si chiude con un deficit ancora 5-6 miliardi, per oltre 30 miliardi negli ultimi 5 anni, in larghissima ragione, come ha detto lei, per la faccenda dell'INPDAP, lo schifo dello Stato che non ha pagato i contributi e che rende anche impossibile fare un conto a ritroso delle pensioni pubbliche rispetto ai contributi davvero versati, perché non li versava e non abbiamo la storia. Fino agli anni 90 non ce l'abbiamo. Però detto tutto, esatto, questo, siccome aspetti, no, alt, siccome mandare in pensione chi ha le imprese costa di più significa intanto che qualcuno gli paga la pensione, uno, mentre facciamo risparmiare le imprese sui minori costi dei lavoratori giovani assunti. Due, tre, nei dati che abbiamo appena spiegato del trimestre si vede che le imprese quest'anno prendono comunque quelli che hanno più skills formate e non i giovani, quindi non è affatto detto che funzioni automaticamente così. Quattro, infatti, Rossana, dettore della CGIL, dice: infatti io voglio la garanzia che sia lo Stato ad assumere i giovani perché non mi fido delle imprese. Ma nel frattempo, Massimiliano, questa roba pone un problema in un sistema di ripartizione, perché queste pensioni prima della Fornero da pagare, chi le paga lo sa come me, meglio di me, Massimiliano, sono quelli che lavorano oggi. E quindi come usciamo da questo problema? Ho fatto la domanda, torniamo tra un minuto per la risposta di Federica. Fratelli d'Italia, l'Italia le resta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte e fino alla morte l'Italia pagò. Sì. I conti della Belva. Eccoci qui, tornati in diretta, i compagni di Conti la Belva vi salutano. Mario Seminierio, Carlo Alberto e Oscar. Abbiamo fatto una domanda per spiegarci bene chi paga, l'onorevole Massimiliano Fedri, anche perché ci deve salutare tra un minuto, quindi subito la parola a lui. Guarda, sarò velocissimo. Per fare un ragionamento sul sistema previdenziale non si può ragionare a compartistagna. E ti faccio un esempio: chi sta pagando adesso il welfare di tutta la mancata occupazione, chi sta pagando il welfare degli esodati, chi sta pagando? Sempre chi lavora. Sempre chi non lavora, e in buona parte anche la fiscalità generale. Sì, ma la fiscalità generale è dalle tasse di chi lavora, certo, è un'impresa. Certo. È chiaro che le pensioni vengono pagate tramite, diciamo, i contributi previdenziali, ma tutta la parte sociale in parte viene pagata tramite la contribuzione. Dico in parte perché noi dobbiamo sempre ricordare che non è un sistema ingiusto far andare in pensione, che non vuol dire anticipatamente, semplicemente prima della follia Fornero, le pensioni, perché il nostro è un sistema solidaristico. Infatti io continuo a sottolineare che è una balla colossale, e Oscar non sa meglio di me, che col sistema contributivo uno riprende quanto ha versato. Perché l'indice di conversione non ti fa riprendere quanto ha versato, non c'è dubbio. Non a caso. Bisogna vedere il PIL, come va negli anni, eccetera, eccetera. Ci sono dei coefficienti. Sì, però in media, se tu facessi calcoli asciutti, dicendo divido quello che ho versato con la rivalutazione sul PIL, è indifferente, per l'aspettativa di vita, uno prenderebbe delle volte, in alcuni casi, più del sistema retributivo. Sì. Quindi questo, non è che stiamo parlando di un sistema ingiusto. Questo riguarda, però spieghiamolo bene, perché questo riguarda, cioè chi ci ha rimesso tra retributivo e contributivo, sono una parte, insomma, più o meno 2 qualcosa per cento del totale del monte pensione retributivo che abbiamo in pagamento, cioè coloro che nell'arco della vita professionale hanno avuto incarichi e, per fortuna loro, bravi loro, retribuzioni molto elevate per un periodo molto lungo della parte professionale, per il quale quindi, se avessimo il sistema contributivo, avrebbero una pensione più elevata di quella che invece con retributivo legato alle ultime retribuzioni hanno. Ma quindi dove sta il problema? Il fatto che non si è mai avuto il coraggio di dividere il sistema previdenziale, la parte previdenziale pura, da quella assistenziale. Vabbè, ma questo è quella la verità. Noi d'accordo, però chi paga le pensioni? Perché abbiamo pensioni che pagano l'assistenza. Ma siamo, però, guarda, però, siccome però, dei 90 miliardi che vengono dalla fiscalità generale, adesso su questo fateci, voglio dire, visto che da anni studiamo i conti, la parte che va all'assistenza non è 90 miliardi, ma la parte che va all'assistenza sono più o meno 57-60, quindi ci sono comunque 2 punti di PIL che della fiscalità generale a oggi equilibrano la minor quantità di contributi raccolti da chi oggi lavora in questi anni di crisi rispetto agli assegni esclusivamente previdenziali che si pagano, e questo è così. Quindi la mia domanda resta, quindi grazie intanto a Massimiliano Fedriga, sentiamo un po' come la pensano un po' dei nostri altri diversi ascoltatori. Umberto dalla provincia di Luca, ci credi alla staffetta generazionale? No, come l'hai sentito? Credo, e come al solito dividiamo le cose in due, uno di qua e uno di là. Io mi occupo della Fondazione Italia-Giappone. Il 7 luglio noi proporremo un approccio un po' nuovo che viene da un'esperienza del Giappone. Sapete, il Giappone e l'Italia sono i 2 paesi con il tasso più alto di anziani. Allora, sul totale della popolazione, un seminario sulla sana longevità. Insomma, il governo giapponese cosa sostiene? Che il concetto di pensione, come l'abbiamo conosciuto fino ad ora, soprattutto in presenza di professionalità, che possono essere anche quelle dell'artigiano o del professore medico, vanno salvaguardate. Si deve continuare a lavorare finché uno ne ha voglia ed è sano e longevo. Ecco. Questo è un approccio un po' diverso da quello che viene detto finora. Però peraltro, Umberto, aspetta un secondo, però il problema non è che è solo diverso da quello che viene detto sinora. Io continuo a ricordare a voi in ascolto che mentre il limite di legge quest'anno per la pensione di vecchiaia è 66 anni 6 mesi rotti, nella realtà, malgrado la riforma Fornero, cioè l'accelerazione dell'applicazione della Dini sulla convergenza tra anzianità e vecchiaia, l'età media di pensionamento nel nostro paese è salita solo di 11 mesi, cioè siamo a poco più di 60 anni, 59 anni e 11 mesi a essere precisi nel 2014. Siamo ancora un paese in cui, quindi, Umberto, la gente vuole andare in pensione il prima possibile, non qui a voler lavorare fino siamo in pochi, caro Alberto. Sai che la mia tesi è che purtroppo molti dei sindacalisti e dei politici fanno una piccola confusione fra il lavoro e il lavoratore, per cui il concetto di lavori usuranti non deve estendersi al lavoratore usurato. Dal mio punto di vista, il lavoratore, io sono completamente d'accordo con il modello giapponese, prepariamoci a lavorare fino a 120 anni, intanto perché vuol dire che vivremo fino a 120 anni, e secondariamente perché non dobbiamo riconoscere allo Stato il diritto di stabilire quando noi dobbiamo smettere di lavorare. Cambiare lavoro però, a 60 però, anni diamo una risposta precisa a quello che ci diceva Rossana Dettori, che è ancora collegata con noi. Caro Alberto, tu saresti favorevole a un intervento nel quale un numero più elevato di categorie ha diritto a età flessibili di uscita diverso dalle regole generali o no? Beh, purtroppo non si può fare questa flessibilità senza aver sistemato i conti dal punto di vista previdenziale, altrimenti finché non si risolve il problema del chi paga, mi spiace, giochiamo ciascuno a scaricare sugli altri il costo del proprio opportunismo. Il vero problema è però, ancora una volta, trovare modalità per garantire opportunità di lavoro anche a chi ha più di 60 anni. Comunque la verità, cara Rossana, è che non ci siamo convinti, ma continueremo a dibattere. Allora intanto andiamo verso il giornale radio e ci sentiamo qualche minuto dopo le 11. I conti della belva. Eccoci qui, tornati in diretta 11, 7 primi, qui 10 secondi. Vi saluto dei compari dei Conti la Belva, Mario, Carlo Alberto e Oscar da questa assolatissima Milano. E andiamo a un blocco successivo dopo quello della staffetta generazionale. Non ci siamo convinti reciprocamente con i nostri ospiti, Federica della Lega e la segretaria della funzione pubblica della CGIL Rossana Dettori. Però speriamo che voi abbiate un'idea più chiara. A noi il problema resta chi paga. Ecco, detto questo, Domenico da Taranto, con il nostro ascoltatore, sì, come la pensa? Buongiorno. Innanzitutto buongiorno a lei e ai suoi ospiti. Ecco. La penso, cerco di seguire tutti i sabati il suo show. Grazie. Mentre vado al mare. Soltanto che vorrei dire questo, ho l'impressione che tutte le volte che sento parlare sia lei che i suoi ospiti economisti, vi sfugge qualcosa, nel senso che le vostre teorie, che sono tutte magnifiche, ma sono state, io non sono un economista, ma ho letto che sono state datate gli inizi del secolo scorso. Qui la situazione è cambiata. Le nostre, quando dici innanzitutto le nostre, non so cosa si dice, datate l'inizio del secolo scorso. Vabbè, vediamo, però vediamo perché. Sentiamo. Okay. Le faccio un esempio semplice. Sì. Ci sono tutti questi parametri che prendono in considerazione il PIL, il prodotto interno nazionale, però il PIL è soltanto uno scambio di numeri. Ma c'è gente come il sottoscritto che in realtà non contribuisce molto all'economia nazionale per il semplice fatto che spendo poco, ma non perché spendo poco perché non compro le cose, ma per il semplice fatto che non ho niente da comprare, cioè tutto ciò che mi serve costa relativamente poco, vivo in una città che costa poco, sto sulla spiaggia e avrò speso 2 euro per arrivarci con il carburante e vivo e faccio una vita magnifica. L'economia è diversa, fate soltanto è uno scambio di numeri che non esiste più. Domenico, fammi capire che cos'è l'economia. Mi faccia terminare. Certo. Il denaro, il PIL, quello che voi chiamate PIL, si è concentrato, si sta sempre più concentrando verso persone sempre più ricche che tra l'altro non spendono tutti i soldi che hanno. Tu sei convinto? La gente, sì, Domenico, se lo spendono, Domenico, se lo spendono. Ma no, non mi faccia completare il dialogo è obiettare, ma perché tu sei meno ricco o più ricco della generazione dei tuoi genitori? Io sono altrettanto ricco. Ricco. Io invece sono, per esempio, forse un po' meno. Un po' meno. Beh, ti guarda, adesso io posso dire tutto. Però ma che lavoro molto meno rispetto a quello che lavorava mio padre. Questo lavori molto meno e stai meglio. Pensa un po'. Quindi quanto si sta concentrando nelle mani dei ricchissimi? Perché il problema è nel concentrare rispetto al totale del reddito. Bisogna vedere anche quanto è salita la media e la mediana, eh? E la media e la mediana in termini reali rispetto alle generazioni di mio padre e di mia madre, sono entrambi ancora vivi ma sono passati attraverso la guerra, quindi hanno una bella ottantina d'anni, sono nati oltre, beh insomma rispetto alla media e la mediana in termini reali, cioè con ciò che si può veramente acquistare nella vita, in Italia è molto salita. Quindi questa storia per cui c'è questa concentrazione nelle mani dei ricchissimi in un'economia, ci dice Domenico, che è tutta sbagliata perché non contano i numeri, la felicità, va bene, opinioni diverse dalle nostre, però senza numeri e senza quantità ognuno la dice come gli pare, che è la vera regola italiana, Domenico, eh? Ognuno la dice come gli pare e lavoriamo meno, noi andiamo in pensione prima, tanto qualcuno pagherà. Sai chi paga? I più giovani, i più fottuti e depredati dal debito che è sulle loro spalle, quello fatto dai partiti, dal debito previdenziale che è fatto da chi incassa gli assegni oggi. Però noi ci raccontiamo che noi a dirvelo siamo degli ottocenteschi fissati, guarda un po' coi numeri, invece mi piacciono quelli con le chiacchiere, questo è il punto vero in questo paese, quelli sì che vanno bene. Allora, Giuseppe da Padova, come la pensa? Eccomi qua, salve. Niente, io penso, come ho sentito il vostro signore di studio che parlava del Giappone, cioè uno a parte che deve essere libero ma deve essere in dovere di lavorare fino alla tarda età, perché è bello passare il testimone nella staffetta, ma se a quel testimone ci rimane aggrappato tutto il fardello dietro, quel povero giovane come fa a tirare a campare? Ovvero una persona deve riuscire a mantenersi fino alla più tarda età possibile e poi deve avere accantonato di suo, con leggi statali, con quello che vogliamo, però deve averci accantonato quanto è necessario per vivere ancora, per non dover pesare necessariamente sui figli, che sono sempre meno. Perché io, per quanto mi riguarda, il mio piccolo, sono un divorziato, io e mia moglie abbiamo una figlia, rispettivamente abbiamo i nostri compagni che non hanno figli, siamo in quattro adulti futuri, quattro vecchi futuri, sulle spalle di una sola contribuente. Ma come cazzo farà la mia povera ragazza, esatto, che ha 14-15 anni? Bra. Cioè, mi sembra una giusta domanda quella di Giuseppe. Allora, vediamo un'altra questione delicata del dibattito aperto al nostro paese. Questa è una posizione invece che è di una sola forza, perché sull'uscita per la staffetta generazionale ormai convergono tutti, come abbiamo visto. Ma invece per la flat tax è una posizione della Lega. Facciamo sentire un pochino Salvini, che presenta questa idea, e poi vi presento i due ospiti. La Lega è un movimento un po' matto, un po' folle e coraggioso, però nei momenti di crisi la storia insegna che sono i matti a cambiare la storia se hanno i piedi ben piantati per terra, e quindi lanciamo il secondo pilastro della nostra rivoluzione culturale, prima ancora che economica, che copia, perché non siamo dei geni, che copia quello che funziona in 40 paesi al mondo, che è l'aliquota fiscale unica secca al 15%. Quindi la nostra scommessa, anche per combattere la stessa corruzione che sta emergendo a Roma, la gente in un sistema fiscale burocratico incasinato si infila ovunque e riesce a corrompere ovunque. Un sistema fiscale che prevede la dichiarazione dei redditi di una pagina che ti dice su quello che hai guadagnato nel 2014 tu mi dai il 15%, è più difficilmente complicabile e corruttibile. Allora, premessa per dichiarare il proprio conflitto di interesse: io sono favorevole alla flat tax, ne scrivo, se andate sull'Istituto Bruno Leoni troverete articoli e approfondimenti sull'Istituto Bruno Leoni, i miei personali, che risalgono a 15 anni fa, 20 anni fa, 10 anni fa. Che cos'è la flat tax? In sintesi estremo, un'aliquota unica di convergenza, quindi per neutralizzare gli effetti distorcenti sulle diverse forme di reddito. Ho imparato però nella vita che a sparare troppo bassa l'aliquota di convergenza si dà una mano ai progressivisti, perché ti dicono: ah sì, il tuo sistema non sta in piedi, determina un tale buco di gettito nella transizione prima che l'economia cresca, cioè che alla fine la gente liberi le risorse rispetto all'esproprio fiscale in corso, che a quel punto fai fare una marcia indietro sulla tua tesi e ne fai fare una in più a chi la vuole ancora più progressiva, la tassa. Però, dichiarato il mio punto di vista, sentiamo i nostri due ospiti. Le domande sono: è costituzionale? Molti pensano che sia incostituzionale alla luce dell'articolo 53 la flat tax, quindi bisogna spiegare come funziona. B: ma sto 15% di aliquota che propone la Lega non è veramente incompatibile con la finanza pubblica italiana? Oggi bisogna forse ripensare radicalmente. C: chi copre, anche in questo caso chi paga la transizione? Ecco, per parlare di questo è con noi Claudio Borghi, che è responsabile del Dipartimento Economia della Lega Nord. Grazie Claudio. Buongiorno. E Dario Stevanato, che insegna diritto tributario all'Università di Trieste. Buongiorno professore. Buongiorno a voi. Allora Claudio, allora inizia a rispondere per parte tua in maniera sintetica. È costituzionale? Perché B, il 15% di aliquota che proponete è, al di là dello slogan, come fa a essere realistico sulla finanza pubblica italiana attuale? Dunque, vi rispondo volentieri. L'inganno, diciamo così, oppure forse la confusione che viene fatta quando si parla di flat tax, è dimenticare che è composta di due pezzi. C'è l'aliquota su cui si concentrano tutti, ma c'è anche la deduzione personale. Esatto. Quindi significa che noi l'abbiamo disegnata su base familiare, per inserire anche un'altra cosa che di solito tutti dicono e nessuno fa, vale a dire il quoziente familiare. Quindi funziona così la nostra proposta di flat tax: si vede cos'è il nucleo familiare, diciamo che sono quattro persone, per ogni persona che compone il nucleo familiare c'è una deduzione fissa. Nel caso dell'aliquota al 15%, la deduzione fissa è stata stabilita in 3.000 euro. Si fa la somma delle deduzioni, quindi siamo in 4, 3.000 euro per persona sono 12.000 euro. Quello è il livello di esenzione fiscale. Quella, diciamo, è la no tax area. e la no tax area. Quindi questa famiglia guadagna fino a 12.000 euro, non paga alcuna imposta, no? Perché deduce direttamente dal reddito la sua personale allowance, come dicono gli inglesi, la sua personale deduzione. Dopodiché tutto quello che eccede questo livello viene tassato al 15%. Se io la tasso, se io aumento l'aliquota, per dire la mia prima versione, no? Prima di aver fatto alcune discussioni con chi l'ha inventata, diciamo così, questa tassa che è il professor Rabusca, la mia prima versione prevedeva un'aliquota al 20, ma prevedeva una deduzione di 5.000 euro a persona. Io posso mettere l'aliquota a invarianza di gettito, io posso decidere di fare aliquota al 15 e 3.000 euro di deduzione. Esatto. Posso decidere di fare aliquota al 20 e 5.000 euro di deduzione, posso decidere di fare aliquota al 25 e 7.000 euro di deduzione, tanto per dire, no? Il gettito non cambia, diventa semplicemente più progressiva. Esatto, no? Perché, diventa più progressiva. Per cui sono scelte, insomma, non ne facciamo certo una malattia. No, tanto è vero che quando la proponevo io proponevo aliquota del 20-25% esattamente con soglie più elevate, come stai dicendo. Però detto questo, e la risposta viene dopo la pausa di un minuto perché abbiamo le informazioni stradali, le proiezioni che voi fate di attuazione di questo sistema sulla finanza pubblica attuale, che ha livelli di entrata assetatissimo senza i quali andiamo per aria, che cosa prevedono? Come si fa nella transizione a rendere questa una proposta credibile, non come vi dicono uno slogan elettorale? Tra un minuto la risposta e poi sentiamo come la pensa Dario Stevanato. Della belva. Eccoci tornati in diretta 11:20 primi 29 secondi questo sabato 6 di giugno, San Norberto, i compari dei Conti della Belva. Mario. Carlo Alberto. E Oscar Giannino. Stiamo parlando di una delle punte di lancia della piattaforma programmatica della Lega. Ieri Salvini è stato al convegno nazionale dei giovani di Confindustria e ha fatto un elenco di proposte. Parlavamo con Carlo Alberto e Mario qua, che in realtà oggi nessun altro partito politico fa. Si è preso le praterie, uno spazio politico colossale, andando a dire agli imprenditori esattamente quello che avevano sentito dire: riduzione dell'IRAP, deduzione dei costi aziendali praticamente totale, addirittura interventi sull'IVA molto, molto protezionisti, che sicuramente non passeranno mai in Commissione Europea, ma che sono effettivamente, vanno a toccare il nervo scoperto degli imprenditori, in questo momento ignorati completamente da qualsiasi partito. Sì, naturalmente significa, da una parte dico agli imprenditori vi abbasso molto le tasse, sì, dall'altra però dall'altra prometto sulle pensioni spesa l'abbiamo visto con Federica, sì, sì. La copertura andiamo tutti in pensione prima, però però dobbiamo riconoscere alla Lega l'unico attivismo fiscale in perché questo momento. Al netto del governo che dice: cari imprenditori, vi ho dato le contribuzioni, adesso state muti, assumete e non rompete coglioni, perché in sintesi questa è la posizione blindata del governo. Per il resto la famosa destra berlusconiana, oltre ai cassi mamma suoi mia, non lascia nulla. Ma non voglio neanche ricordarvi i libri bianchi fiscali con gli impegni precisi delle due aliquote del 22-33% di Berlusconi, che fine hanno fatto. Il disastro è che in realtà dei Berlusconi è quella di non rendere credibile tutte queste idee. Ma scusate, idee. Cioè qual è la differenza sostanziale tra quello che ha promesso Berlusconi per un ventennio, avendo la Lega come partner di coalizione, è quello di cui si sente parlare ora? Ah, ecco, questa è una domanda che Mario Claudio fa. Claudio, ti giriamo questa domanda al volo, perché, così. Perché poi tu lo sai, Claudio, la Lega, tu non la Lega c'eri, 2.0, tu non c'eri, diciamo. Allora, però il problema è che sentirsi dire, ce l'avete già raccontata. No, vabbè, però non c'eri in prima fila come responsabile per la Lega. Questo è effettivamente un bel punto. Allora, teniamo presente una cosa, che la differenza attuale rispetto a quello che è successo in passato, quando si dice c'era anche la Lega, era che in passato la Lega, con tutti i difetti che aveva, perché la Lega attuale non è quella del passato, poi dopo uno può giudicare se era meglio o peggio, così questo tipo, per carità, però un partito è fatto di persone, no? È come dire che io prendo un'auto da corsa, no? E gli metto su uno che non ha la patente, Oppure gli metto su Vettel, no? Non è uguale. O Alonso, non è uguale. È l'autoscuola. Quindi, Borghi sta insegnando qualcosa a Salvini, chiunque, per capire. Chiunque tiene, ma adesso non so se è l'autoscuola Borghi, però di sicuro, appunto, come hai ricordato tu, Oscar, io prima non c'ero, adesso ci sono. Io ero uno di quelli che magari votava Forza Italia e che tirava delle grandi, accidenti davanti allo schermo, perché quello che mi veniva promesso poi non veniva fatto. Esattamente. Però naturalmente agli occhi degli interlocutori politici e degli italiani ti chiedono: bene, perché dovremmo fidarci primo dei tuoi conti con un'aliquota del 15% che non scassa tutto, secondo che non sia come in passato una cosa fatta per acchiapparbotte? Beh, per un motivo semplice, che io nello specifico sono una persona che non ha nessun interesse di sputtanarsi. Cioè, ho fatto la mia vita economica, non me ne fregava niente, ero sereno, stavo bello tranquillo. Se mi sono messo a lavorare con Salvini è proprio per vedere di cambiare qualcosa, ma che voglia avrei io poi dopo di essere segnato a dito come... No, personalmente credo anch'io... Con i due, cosa diversa un politico di professione. Il politico di professione lo mette in conto, come sai. Il politico di professione, Matteo è uno che chiunque lo conosca, Salvini sa che da ragazzino questo ha fatto, lo fa in maniera strepitosa, gli hanno consegnato i pagati da Berlusconi, scusami, io sono un po' ruvido, una Lega convinta che fosse morta, e lui da militante pazzesco li ha lasciati tutti con un palmo di naso, e quelli dovranno stare zitti a vita, perché l'ha riportata su dal meno del 2% al percentuale di oggi. Quindi l'ha portata su con dei contenuti, sì, cioè alla fine, però, prima ancora di essere di diventare segretario, però, si è trovato con me e ci siamo intesi. Allora la domanda è: gli effetti sulla finanza pubblica di questa proposta li avete fatti? Allora, sì, li abbiamo fatti, e come? Allora, le spiego anche poi com'è che è venuto fuori il 15 e non il 20. Ecco, se noi andiamo a vedere cos'è l'aliquota effettiva pagata sull'imponibile, scopriamo che è il 19. Perché? Perché innanzitutto quasi tutti, cioè uno dice vabbè, ma tu stai tirando giù l'aliquota alta che adesso paga il 40%, non è vero. Perché la maggior parte delle persone dichiarano zero o pochissimo, cioè la piramide, no, delle dichiarazioni è clamorosamente spostata verso la base, che sia perché tutti guadagnano poco, come probabilmente non è, o perché tantissimi evadono, che è quello che penso, non cambia, però il risultato è che quasi tutti guadagnano poco. Quindi l'aliquota attuale che uno paga è molto bassa, perché pagano quasi tutti il primo scaglione di aliquota, no? Su cui poi dopo c'è tutta una serie di riduzioni fantasiose, le ristrutturazioni, le medicine, la palestra dei bambini. Perché motori, naturalmente, inciso per far capire, questa proposta fa tabula rasa di tutto il resto delle detrazioni ad personam discrezionali, eccetera eccetera. Così tabula rasissima, non esiste più nessun altro tipo di deduzione, di detrazione o cose di questo tipo. Non perché sono comodo e sbagliato, ma perché sono frutto di lobby. Cioè, chi è che decide che è più giusto detrarre la ristrutturazione di casa piuttosto che l'impianto di un'azienda? Posso utilizzarle poi dopo gli aspetti fiscali, volendo, per fare politica industriale, ma le devo fare per aree del paese, tipo, non so, c'è un'area disagiata, quella lì avrà, quest'area qua avrà un'aliquota inferiore rispetto a un'altra, per cercare di incentivarla. Ma questo per spiegare a chi ci ascolta, la becca chi grida di più, che no? Sparire non solo per questioni di semplificazione la stragrandissima maggioranza delle diverse troppe forme di deduzioni e detrazioni, ripeto, nazionali ma anche regionali, perché sono diverse centinaia sommandole tutte tutti i diversi tipi esistenti, queste che si chiamano le fiscal expenditures in termini tecnici, e che comporta minor gettito per lo Stato per un centinaio di miliardi, inclusi gli 80 euro. Questa roba qua serve anche come componente aggiuntiva per rendere fiscalmente credibile e sostenibile in uno Stato assetato di entrate un sistema come questo, anche se però la domanda fino in fondo sulle proiezioni resta. Aggiungo anche un'altra cosa che riduce la platea, diciamo così, no? Prima di fare la flat tax noi intendiamo sanare la partita di giro di buona parte dei redditi che girano perché è ovvio che io non voglio fare la flat tax per far pagare di meno Mattarella, no? O quelli dei giudici costituzionali. Quindi gli stipendi erogati dallo Stato, no, che in questo momento vengono erogati all'orto e poi dopo diventano al netto, no? Ecco, questa parte detratta ovviamente un forfè medio che attualmente viene utilizzato per le deduzioni, quindi si alza lo stipendio, si depennano anche in questo caso le deduzioni, ma la gente viene pagata al netto. Quindi chi ha un impiego statale, una pensione o cose di questo tipo, deve ricevere uno stipendio più corposo di quello che riceve attualmente, ma netto. Perché così facendo già puliamo ancora il bilancio dello Stato, perché così sembra che le spese sono più alte e che le tasse sono più alte, ma in realtà è lo Stato che si rintasca subito parte di quello che ti paga. Quindi rimane una platea più ridotta. Da questa platea più ridotta abbiamo un'esperienza internazionale. L'esperienza internazionale ci dice che in tutti i casi, non è che un po', in tutti i casi in cui è stata applicata la flat tax non c'è stato calo di gettito. Tutti. Non è che uno dice vabbè, c'è qualche volta sì, qualche volta no, non c'è mai stato caso. Però tu sai, adesso questo per tu sai, poi abbiamo un altro blocco ancora per parlarne, perché questo lo dico anche al professor Dario Stefanato, che noi stiamo tenendo nell'angolo lì, però noi andiamo avanti anche dopo. Però tu sai, per salutare. Ecco, so, però tu sai che è la stessa obiezione che è stata fatta miliardi di volte a me 10 anni fa e così via, che siccome i casi dei paesi, per esempio paesi est europei, la Russia e così via, sì, erano paesi che avevano enormi problemi, molti di loro, non tutti, di compliance fiscale, cioè di bassa adesione, di enorme illegalità fiscale. A, B, c'avevano, sì, questo è vero, però B, avevano una struttura storica dell'andamento del gettito e del prelievo sul PIL molto più bassa della nostra, quindi dice sì, beh, bravi voi che fate quegli esempi e che quindi con la bassa aliquota di convergenza è ovvio che si è espansa l'imponibile e quindi il gettito aumenta. In Italia una pressione fiscale molto più elevata, cosa diavolo volete che emerga spontaneamente? Se abbassate l'aliquota ne approfittano ancora di più per nascondersi, questa diventa l'obiezione. Ok, comprensibile, comunque dico molto velocemente, supponendo che non ci sia nessun tipo di recupero da nessuna parte, sì, cioè proprio neanche mezzo, non emerge nulla, nessuna compliance, il buco di gettito, chiamiamolo così, massimo immaginabile, no? Sarà di 40 miliardi. Questo è proprio a conti brutali fatti, no? Quindi che non c'è da qui, da 40 è il massimo del totale che possa capitare. Da qui possono scendere il numero. Che significa però che passiamo da una pressione fiscale, quella stretta, del 44,5, 2 punti meno, al 42%, c'è un 2,5 di PIL che balla, ecco. Ecco, quello che voglio dire io è che io arrivare a una pressione fiscale del 42 dovrebbe essere un obiettivo. Ma cacchio, io dovrebbe essere, non dovrebbe per me essere 35, un timore. Figurati. No, cioè, no, però infatti, lo sappiamo che non ragiona così la politica. Padova ha appena detto invece, allora, che le tasse sono una costante universale. Se qualcuno paga di meno, qualcun altro deve pagare di più. L'ha detto questa settimana. Beh, allora uno mi dovrebbe spiegare come mai, no? Normalmente queste le tasse sono pagate dalla crescita. Allora, se io riesco in qualsiasi motivo a mettere in circolo un 2% di PIL in più, no, e poi non lo sarà, perché è ovvio che io da 40 miliardi in realtà io avrò sicuramente una parte di recupero, però, di qualsiasi tipo, supponendo anche che non ci sia niente. Io metto in circolo un 2%. Abbiamo più, capito, ma che tu dici nella transizione, traduco io perché tu ovviamente così non puoi dirlo, anzi dai che sto sbagliando, Borghi, responsabile della Lega, ci dice: nella transizione noi siamo disponibili a fare anche 2,5 di deficit in più, perché tanto poi gli effetti sono di crescita e qui naturalmente poi sono i vincoli europei, quello che volete voi. Però questa è già una risposta alla domanda. Abbiamo un minuto di pausa, poi Mario Seminario parte con un'obiezione. Della belva. E Eccoci tornati in diretta 11.36 primi 49 secondi in questo sabato 6 giugno. I conti della Belva e compare vi salutano. Carlo Alberto. Mario. E con noi, io sono Oscar ovviamente, con noi c'è Claudio Borghi, responsabile economico della Lega. Gli abbiamo fatto spiegare e rispondere un po' alle obiezioni sulla flat tax al 15%, una delle proposte diciamo di cui la Lega si fa forte, è una delle spiegazioni della sua crescita elettorale rispetto al cadavere che aveva ereditato Salvini, consegnatogli da Maroni prima della gestione Bossi prima ancora. E con noi anche il professor Dario Stevanato, al quale ancora non abbiamo però questo praticamente nulla per colpa nostra. Mario, c'era un'obiezione che volevi fare, ma prima fammi rispondere ai tanti ascoltatori che dicono: ma che cacchio state dicendo stamattina, ma non avete letto i giornali che la Confindustria ha fischiato Salvini? A parte il fatto, ve lo dico come sempre, che non me ne fregherebbe nulla se l'editore ha fischiato o meno Tizio e Caio, ma il problema è che noi stiamo parlando qui della flat tax, non stiamo parlando dell'uscita dell'euro di qua di là, stiamo parlando di una cosa per spiegarla in concreto. Quindi primo, leggete meglio i giornali; secondo, ognuno risponde alle proprie scelte, al proprio modo. Non so come, sto parlando a titolo individuale, non a nome anche degli altri compari. Però Mario, che dici? Allora, premesso che è affascinante tutta questa narrativa, non la contesterò, diciamo, però c'è anche un aspetto distributivo da considerare. Cioè, giustamente, come diceva Claudio, noi avremo una detrazione, deduzione, una franchigia onnicomprensiva corretta per nucleo familiare, dentro la quale devono entrare tutte le attuali agevolazioni fiscali. L'aspetto distributivo, attenzione, distributivo, non redistributivo, perché è una cosa diversa, vuol dire, ad esempio, che spariscono, compensati da questa franchigia, spariscono la deducibilità degli interessi passivi sul mutuo prima casa, spariscono tutte le spese sanitarie, spariscono tutte le tax expenditure su cui, cioè, questo paese è stato costruito. Milioni di italiani sono, esatto, assolutamente, quindi, abbarbicati. I beneficiari di queste agevolazioni fiscali non coincidono perfettamente con la struttura della franchigia universale di cui Claudio parla, che tra l'altro conserva la progressività fiscale, per cui non avremmo problemi costituzionali. L'articolo 53. Quindi c'è questo da dire. E poi un'altra cosa, scusate, ma la flat tax introdotta ex novo, se fate una riflessione, è avvenuto in regimi, in post-regimi, alla caduta di dittature e quant'altro, ad esempio nell'est europeo, eccetera. Peraltro adesso non è neanche più così, perché sono in corso d'opera delle rettifiche, no? Perché i codici d'imposta si stratificano. Dove c'erano paesi praticamente in ginocchio, con sistemi burocratico-amministrativi morti, che quindi avevano bisogno di incassare pochi maledetti e subito. Non era la nostra agenzia delle entrate. Con popolazioni soprattutto giovani, con una struttura demografica giovane, e questa è la differenza fondamentale rispetto a uno dei paesi più vecchi al mondo, che si troverebbe praticamente letteralmente terremotato. Poi, per quanto riguarda l'effetto Laffer, diciamo, no, di questa riduzione di aliquota o di pressione fiscale che determina l'emersione del sommerso, questo è tutto da 35 di buco che va giustificato, che quindi sotto quel punto di vista poi lo si gestisce. Però guardate, se anche l'idea è affascinante sul piano intellettuale, ricordate i vincoli demografici, politici, di contesto e quant'altro, e soprattutto una cosa particolarmente stronza che si chiama realtà. La realtà, tu dici, fatta milioni di italiani che non rinunciano alle loro belle deduzioncine, detrazioncine ad hoc, e una per la piscina del figlio se ha un piede più lungo e così via. Io non lo so, per me, ripeto, io nella mia vita tante volte ci ho provato. Detto questo, è molto complicato, questo non c'è dubbio, però vedere la reazione della gente che difende il sistema fiscale attuale a me fa ribellire il sangue. Questo non ci posso fare niente, è così. Cioè, un sistema fiscale che ha, lo ricordo a tutti, per le persone giuridiche si fonda sull'inversione dell'articolo 53, cioè qui più un'impresa è piccola più paga un total tax rate più elevato sul suo risultato ante imposte rispetto alle grandi banche e alle grandi imprese. Cioè un paese da questo punto di vista pazzesco, difendere questa roba dicendo questa idea è irreale. Parliamo di questa idea, ma il professor Dario Stevanato adesso è nel suo turno. da tutto quello che abbiamo detto. Primo, ci rassicura se è costituzionale o meno? Secondo, qual è la sua opinione sul fatto che diciamo l'obiezione Seminario, guardate che allevare tutte le detrazioni significa che milioni di persone li regalate alla difesa del progressivismo attuale. Terzo, rispetto all'attuale ordinamento, ma anche a come funziona e a come raccoglie il gettito, da quello che ha capito lui guardando tecnicamente la proposta della Lega, i punti deboli dove sono, quali secondo lui? Professor Stevanato, prego. Sì, allora, sulla progressività, diciamo, mi allineo con quello che avete detto, cioè diciamo esistono vari tipi di progressività che può essere raggiunta non solo attraverso una scala di aliquote progressive, ma anche con sistemi di deduzione e detrazione alla base. Probabilmente mi allaccio alla terza questione, cioè sulla proposta della Lega, ne avevamo parlato con Claudio Borghi in qualche occasione. La mia impressione è che 15% con una fascia di detenzione molto più bassa di quella attuale forse andrebbe in qualche modo rivisitato, perché osservo che oggi l'aliquota minima sta al 23%, quindi 15% sarebbe molto più basso dell'aliquota minima attuale, mentre la fascia esente, che peraltro sta solo in capo a titolari di alcuni redditi, cioè dipendenti e pensioni, siamo attorno ai 7-8 mila euro, quindi 3 mila sarebbe una fascia esente più bassa da quella attuale, che dovrebbe assorbire anche tutte le detrazioni e deduzioni che spariscono. Quindi diciamo nella mia testa io suggerirei un innalzamento sia della prima che della seconda, cioè un'aliquota ad esempio che si collochi, a mio avviso, tra la più bassa aliquota IRPEF attuale, che è il 23, e l'aliquota IRES, che sta al 27,5. Perché dico questo? Perché uno degli effetti della flat tax in termini di semplificazione e di aumento dell'efficienza del sistema sarebbe anche quello di avere un'unica aliquota che non solo consente di rendere indifferente la produzione del reddito attraverso strutture societarie o in forma individuale, quindi diciamo sparirebbero tutta una serie anche di problemi, di complicazioni legate alla tassazione di dividendi, legate anche al fatto che questo è un tema di equità che aggiungerebbe la flat tax. Non dobbiamo dimenticare che oggi l'IRPEF è progressivo solo su alcuni redditi, sì. Questa è una cosa che spesso viene dimenticata, sì. Ma ci sono intere categorie, penso ai redditi finanziari o anche a quelli immobiliari, le locazioni o anche le plusvalenze, che possono accedono di default ad un sistema di tassazione proporzionale che sta tra il 21 e il 26%. Quindi rispetto alle attuali aliquote progressive IRPEF che insistono quasi esclusivamente su redditi di lavoro e di pensione, la flat tax aggiungerebbe un elemento di equità orizzontale, cioè si perde qualcosa in termini di equità verticale, cioè si pagherebbero pagherebbero di meno i redditi elevati, però ci sarebbe una maggiore equità orizzontale, che peraltro secondo me va vista anche positivamente nello sfrondamento della miriade di detrazioni e deduzioni. Queste pare che ammontino a circa 100 miliardi di euro, in cui dentro c'è un po' di tutto, quindi è difficile stimare l'effettivo recupero di base imponibile, che comunque in buona parte ci sarebbe. Ma appunto tutte queste detrazioni e deduzioni che si sono aggiunte nel tempo per palestre, per ristrutturazioni edilizie, per i motivi più vari, anche inquinato l'attuale sistema. Pensiamo a quello che è successo recentemente in termini di trasparenza delle misure col bonus 80 euro, in cui nessuno più si raccapezzava se si trattava di una minore entrata o di una tax expenditure, di un sussidio. Cioè, quindi far venir meno le tax expenditure in sé aggiungerebbe elementi di trasparenza e di equità. Poi le tax expenditure potrebbero a quel punto, se il governo vuole intervenire esplicitamente su un settore, lo fa attraverso provvedimenti espliciti di spesa, quindi tenendo separato il lato dell'entrata da quello della spesa, che a me sembra sempre una buona idea. Dario, però se posso chiederti un giudizio molto secco, possiamo dire che la flat tax interviene su due privilegi importanti. Il primo, quello dei politici nell'assegnare detrazioni e deduzioni. E il secondo, quello dell'opportunismo delle imprese e dei redditi di lavoro autonomo, di cercare di sfruttare la fiscalità al margine, che tipicamente viene introdotto invece dallo scaglionamento delle aliquote. Ogni scaglionamento delle aliquote induce matematicamente un comportamento opportunistico. Certo, induce a splitting, induce a creazione di trust, creazione di strutture societarie da cui magari i dividendi non escono per non essere tassati una seconda volta, cioè crea inefficienze, tentativi di elusione, delocalizzazioni produttive, emigrazioni di residenze fiscali. Che... No, è bene ricordare quali sono gli effetti di questo meraviglioso sistema fiscale italiano, perché io vedo ascoltatori che dicono: Giannino, devi dire con questa proposta, dici quanti milioni di dipendenti vuoi tagliare. Ragazzi, guardate che è il sistema attuale che ha fatto crescere le discrasie discrezionali del prelevo fiscale, favorendo, ripeto, la grande, grandissima impresa e le banche rispetto al 99% delle piccole imprese. Vi è chiaro questo? A. B. È il sistema della discrezionalità nel calcolo del coefficiente rispetto ai montanti che rende le 2.200.000 pensioni pubbliche medie di 1.700 euro al mese rispetto a quelle private meno di 1.000. È chiaro che funziona così. Questo paese che state difendendo, assetati difensori dei partiti, ladri! Ecco, è chiaro che siete difensori di questo? Quindi... parliamo del fatto che le controproposte magari non reggono, vanno fatte meglio, eccetera, eccetera, che sono disinvolti slogan elettorali? Sì, forse, anche se finora chi ha vinto le elezioni su questo si è preso le pernacchie perché ha fatto il contrario, e questa è la grande colpa storica dei berlusconici, dei berlusconiani, dei Tremonti socialisti travestiti, di tutta quella gente lì che mi fa ancora ridere. Il 10% di voi voti, evidentemente, neanche se arriva la Madonna di Lourdes, voi siete convinti che sono stati commessi degli errori. Anzi, magari state lì ad applaudire perché ha venduto il Milan, capite? Questo è quello che vi interessa. Detto tutto questo, io sono un passionale. Queste sono delle buone idee per farvi riflettere sul fatto che questo cacchio di sistema fiscale, così com'è, è indifendibile. Eppure vi piace. E i partiti ve l'hanno messo nel fondo schiena e voi siete lì a dire che bello perché non c'è alternativa. Le alternative bisogna saperle esaminare e discutere. Io... prima, tanti anni fa, ero per un'aliquota più elevata perché mi ponevo il problema delle detrazioni che sparivano, e naturalmente mi ponevo il problema a quel punto però di dover mettere una no tax area più elevata. Questo è un arbitraggio politico, perché a scegliere l'aliquota di convergenza e sulle detrazioni significa a quale blocco sociale stai parlando, sì, per essere chiari. Vero, però è anche il merito, e qui poi provo a rispondere a Mario se posso, e anche il merito invece, secondo me, questa cosa qua di chiedere ai politici, se vogliono, di prendersi la responsabilità di sussidiare con spesa pubblica specifica singoli gruppi sociali che verrebbero penalizzati, e lo sappiamo, dalla riduzione delle tax expenditure. Io sono d'accordo con Dario che dice spostiamo le tax expenditure da a vera e propria spesa sociale, almeno la politica si prende la sua responsabilità se vuole sostenere interessi particolari. Ma certo. E se vuoi, questo è il vantaggio, il che non vuol dire, come dire, non dire la verità agli italiani sul fatto che devono scordarsi questa no, giungla. Ma l'invito di Mario è vero al realismo, perché purtroppo è vero che poi è stata applicata solo in paesi che non avevano amministrazioni che erano in piedi e che avevano così, e quindi bisogna sapere che è complicato. No, quando usciremo da questa guerra che stiamo vivendo da alcuni anni, quando probabilmente perderemo, diciamo, tutti gli anziani che abbiamo per esaustione biologica, Dio, e avremo solamente perderemo i giovani per fine del ciclo di vita, voglio dire, e avremo solo pochi giovani vietnamizzati, e probabilmente avremo la flat tax, cioè prima dobbiamo arrivare al fallimento totale ordinamentale. Però io onestamente una società anziana non la vedo impegnata con una flat tax, una società anziana che vive di welfare. Infatti la flat tax è dinamica, questo è infatti la è per una struttura demografica molto giovane, allora, questo è un dato di fatto. Allora bisogna votare con i piedi e andarsene, che cosa volete che vi dica? Cioè. Allora, intanto, siccome continuiamo a parlarne di questo, io ringrazio Dario Stevanato e Claudio. Claudio, puoi darci un voto? Siamo stati sufficientemente aperti nella valutazione della proposta, o hai visto pregiudizi, Claudio? No, non ho visto pregiudizi. Vi ho linkato su Twitter un documento nostro, se lo trovate, se poi lo volete ritwittare, con i numeri per chi vuole approfondire. Esatto. Vorrei dire a Mario di star tranquillo, perché in realtà i vecchi possono avere la pensione pagata solo se i giovani lavorano. In questo momento c'è il disoccupazione. Sicuramente. Quello è il grande meccanismo di equilibrio attuale. Allora, grazie, ma ne riparleremo, vedrete che ne riparleremo. Intanto teniamo tra un minuto con Non si può fare di Cifanelli. Fratelli d'Italia, all'Italia le vesta, le tempi di Cipio finita è la festa, si giancia a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte gli della belva. Eccoci qui, tornati in diretta per questa parte finale, compari dei conti della belva, a cui si aggiunge il quarto compare, Renato Cifarelli. Buongiorno. Che voce tutta bella. Buongiorno. Allegra che hai, eh? Ah sì, sono fermo in un'area di servizio a Piacenza. Ah vabbè, allora, proprio, insomma, sì. No, ma il problema è che non sei ancora abbastanza vicino al classico mese in cui noi che siamo piccolissime imprese dobbiamo romperci la testa, perché il 16 di ogni mese è una specie di calvario che si avvicina, però manca ancora sta decina di giorni per respirare. Allora Renato, di che parliamo oggi per la serie Non si può fare? No, oggi parliamo di una cosa di cui magari qualcuno che naviga si è accorto, che è che negli ultimi giorni passiamo più tempo a cliccare e dire ok sui banner che a navigare. Cioè se uno entra in un sito gli appare quasi sempre un banner che gli parla di cookies, cioè biscottini. Siamo nell'economia dei biscotti digitali, sì, caro Renato. Biscotti digitali, speriamo siano cioccolato che a me piacciono. Allora, dal 2 giugno è obbligatoria l'informazione sui cookies, quindi quello che succede è se ti profilano, ti devono dire ti stiamo profilando, una cosa che era normale ed è normale su internet. È una cosa che si sapeva da un sacco di mesi. Peccato che i chiarimenti del garante della privacy, che in Italia è la persona che è incaricata di queste cose, sono usciti l'8 maggio, quindi c'era già un... abbastanza inoltrato rispetto al... Sì, rispetto all'anno da cui noi lo sapevamo. Poi sono usciti, come sempre accade in Italia, alcuni ulteriori chiarimenti che erano stati annunciati il 4 giugno, cioè due giorni dopo che era scattato l'obbligo. Due giorni dopo, ma intanto noi cookies li avevamo... E stiamo parlando dell'autorità che presiede il digitale nel nostro paese. Carlo Alberto, ma dove vogliamo andare? Sì. Dove vogliamo andare, Carlo? I banner li avevamo messi tutti. Comunque non preoccupatevi, perché il garante ha detto che le multe, che non sono da poco, perché sono dei 6.000 ai 120.000 euro, ha detto che le multe non le farà. No, poi dire una cosa, la privacy è un bene economico di cui dobbiamo disporre in maniera intelligente e dal mio punto di vista è giusto crearne un mercato trasparente e liquido. Dicevi Renato? No, io ho due bellissime perle. Allora, una è questa: il sito del garante invia i cookies e non ha il banner. La seconda? È vero che sono cookies tecnici, quindi lui ha chiarito che non ci vogliono i cookies tecnici, però tutto sommato è abbastanza divertente. La seconda è che la profilazione, quindi il fatto che tu migliori la navigazione di chi viene nel tuo sito, va comunicata al garante. Hai capito? Per comunicarla al garante devi fare un piccolissimo versamento. È andata via la voce. Versamento, dice, no, lo dico devi fare un piccolissimo versamento. Hai fatto la voce bassa, no? Ma il versamento è di 150 euro, moltiplichiamolo per tutti i siti. Hai capito? Bel provento. A me, che sono uno che pensa malissimo, poi vengono i dubbi che quello sia l'obiettivo finale. Non vi facciamo la tassa sui biscotti, eccola qua. Ma no, dunque, istruzioni dopo l'obbligo. L'autorità è la prima, non in regola. Naturalmente le sanzioni non le applicherà, ma alla fine raccoglierà soldi. Viva l'Italia! Poi siamo noi che sbagliamo a cambiare l'inno. Siamo la Repubblica fondata sui biscotti. Digitale Repubblica affondata. Grazie Renato, grazie ascoltatori, grazie a tutti i compagni dei conti della belva. Continuate con le 24, appuntamento con me lunedì, la versione di Oscar alle 4:30.